Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Note del blues che si fondono con quello che è l'inno più leggendario della storia del rugby, l'Haka, la celeberrima Haka, che è biglietto da visita degli All Blacks della Nuova Zelanda, quella che è la squadra per antonomasia del rugby mondiale. E beh, lo avete capito, oggi parliamo di rugby più a Olimpia, ma parliamo anche di blues e parliamo anche di uno spettacolo teatrale che in questi giorni, in queste settimane, torna sul palcoscenico, e parliamo del suo autore. Beh, io dico, oltre a essere un amico, è un cantastorie, è un attore, è un regista, e l'ho definito anche ex rugbista, Biagio Vinella. Ma Biagio, mi hai detto subito che questa definizione non va bene? No, perché il rugby, quando uno gioca a rugby è rugbista per tutta la vita, c'è poco da fare, cioè non è come fosse una specie di qualcosa che ti accompagna, una massoneria, ecco, una massoneria sportiva. Si rimane marchiati per sempre, ed è bello avere nella pelle, nell'animo, il marchio della palla ovale. Beh, abbiamo sentito quest'Haka, abbiamo sentito le note del blues che ti accompagnano in scena in Rugby Blues, queste storie straordinarie di rugbisti ellittici, direi, rispetto al campo di gioco con le loro parabole. Senti, ti voglio far sentire un signore che quella Haka l'ha interpretata più volte in campo e che ce ne spiega ora il senso più profondo. La Haka è una danza di guerra, una danza che i Maori fanno prima di andare in battaglia. È una sfida a tutto e a tutti. Se perdi quella sfida sei sconfitto, battuto. Nel rugby, ovvio, per fortuna non si lotta per la vita e la morte, ma lo spirito è lo stesso. È una sfida lanciata all'avversario nel pieno rispetto dello spirito del gioco e dell'avversario stesso. You do give that, and but it's done in respect. Rispetto, spirito del gioco. Beh, chi meglio di John Alomu forse ha interpretato tutto questo nel rugby moderno, no? Questa era la sua testimonianza. Chi era John Alomu? Chi è? Ma diciamo che la sua danza Haka fondamentalmente l'ha usata sui campi, ma la sua vera danza Haka contro il suo nemico è stata fuori dei campi, ed è questa la grandezza di un atleta che comunque ha cambiato il modo di giocare di tante squadre, perché è stato veramente un qualcosa di rottura rispetto al rugby tradizionale, questo dal punto di vista fisico, dal punto di vista di interpretazione del gioco proprio. Questa è una cosa straordinaria, ma appunto la sua vera battaglia è stata un'altra, questa è una battaglia sportiva. Lui ha combattuto un'altra battaglia che ha vinto, perso, sta di nuovo perdendola, poi la rivincerà ancora. Un'epopea e sì, anche un insegnamento. Adesso ci arriviamo. L'Omu di fatto sarà il giocatore simbolo del rugby per tutta la seconda metà degli anni 90 e ancora fino a buona parte degli anni 2000, ben più di quello che sarà il suo palmarès, perché poi in realtà con la maglia degli All Blacks sarà più celebre per una sconfitta, quella nella finale dei mondiali del Sudafrica del 95 sotto gli occhi di Nelson Mandela in tribuna, che per le sue tante vittorie. Però quello che riusciva a fare in campo con la sua potenza, con la sua forza fisica, ma anche con una sua velocità di base straordinaria, in qualche modo ha cambiato l'immaginario collettivo rispetto al giocatore di rugby tradizionale. È vero? Ma sì, almeno io ti parlo anche del rugby di un certo tipo, ma anche a livello nazionale, cioè le ali, per esempio, il ruolo che lui interpretava, che ha interpretato in questa maniera, fino prima di lui non erano ali con queste caratteristiche fisiche. Adesso se tu guardi il numero l'11 e il 14, a parte qualche rara eccezione, sono tutti quanti dei giovanotti impressionanti, veramente impressionanti. Ma diciamo che ha imposto un upgrade delle taglie, sì, delle magliette l'uomo, perché insomma trovarsi un 100 kg e passa che riusciva, certo, quasi a correre i 100 metri in meno di 11 secondi, sì, era un po' a vedersi arrivare un treno in, sì, di fronte. Sì, qua mi rivolgo anche agli amici rugbisti, quelli che hanno giocato, effettivamente penso che è come mettersi davanti a un camion in pratica. Adesso ve le faccio sentire un po' delle sue mete, perché dall'entusiasmo dei commentatori vi rendete conto di cos'era in campo Jonah Lomu. Questo è stato il Lomu giocatore, straordinario, ha cambiato il senso della storia del rugby, ma fuori dal campo Jonah Lomu sta ancora combattendo oggi una battaglia del tutto diversa e del tutto particolare. Sì, beh, lui ha questo grande problema, ha già subito un trapianto a rene, per cui diciamo ha avuto veramente dei grossi problemi. La cosa straordinaria era quella che un giocatore che sul campo non aveva avversari, cioè lui praticamente ha smesso di giocare a 25 anni, giovanissimo, a un certo livello, no? Si è trovato a combattere contro qualcosa che era veramente più grande di lui. Sul campo era imprendibile. Lui è proprio... aveva un modo di giocare che era straordinario, faceva questi movimenti con un'eleganza, una semplicità, ma con una potenza devastante, no? Che è venuta a cadere quando si è reso conto che aveva dei problemi importanti. Ecco, direi che in questo forse più che il rugby ci aiuta il blues, no? Per raccontare questa debolezza di questo gigante. Tu sul palco provi proprio a spiegare questo, come un colosso di questo tipo percepisca poi il tradimento ultimo da parte del suo stesso corpo e che di fatto è la malattia con cui bisogna venire a patti, no? Sì, sì, lui si accorge intorno agli anni 97, no? Per cui dopo il mondiale, dove era lanciatissimo, si accorge che per poter mantenere i ritmi degli altri compagni di squadra, degli altri All Blacks, deve lavorare in maniera notevole, molto di più di loro. E questo gli dà sempre questa debolezza, sempre questa stanchezza che si portava. Però, nonostante tutto, lui continua a rimanere in questo gruppo, no? Gli trovano qualche problema a quei tempi, gli danno delle pastiglie, gli danno queste cose, fin quando poi nel 2003 non ce la fa più, e i dottori gli dicono: tu non puoi più giocare rugby. E pensa, cioè, tu prendi un giocatore come Jonah Lomu, che ha sempre corso come il vento da tutte le parti, lo metti a fare la dialisi 6 giorni su 7. Questo è... Però senti, voglio farti proprio sentire, a proposito della testimonianza che ha rilasciato al nostro microfono Jonah Lomu, a proposito di questa sua rinascita, no? Di questo legame molto più forte di quello che è stato il rapporto con la malattia, ma il legame forte con il rugby e con la sua grande passione. La ragione principale della mia rinascita è stata l'amore per il gioco, per il rugby, e la mia fede, il credere in Dio che mi avrebbe dato una seconda possibilità per risollevarmi, per trasformare i miei sogni in realtà. Così Jonah Lomu che continua questa sua partita, e speriamo davvero che la sua vittoria sia definitiva. Biagio, qual è l'eredità che Lomu lascia al mondo di rugby per quello che ha fatto in campo e per quello che sta facendo fuori? Allora, per quello che riguarda il campo, possiamo tornare all'inizio, cioè la nuova interpretazione di un ruolo, tutta sua. Per quanto riguarda quello che al di fuori del campo, la speranza per le persone che hanno dei problemi, quindi si può riuscire a continuare a vivere, si può sperare, basta veramente credere in quello che si sta facendo, ecco, tutto lì. E poi un'altra splendida eredità è la possibilità di vedere raccontata sul palcoscenico questa storia da Biagio Vinella nel suo rugby blues. Prendiamoci qualche istante di pausa, Biagio, poi ci ritroviamo ancora qui a Olimpia per parlare di grandi storie di rugby. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora il rugby, protagonista di Olimpia, oggi, con un ospite particolare, Biagio Vinella, attore, regista, cantastorie, appassionato di sport, rugbista ancora oggi, perché rugbista, lo abbiamo detto, lo si rimane per sempre, no, Biagio, e che in queste settimane è di nuovo in teatro con le sue storie di rugby and blues. Allora, Biagio, voglio farti sentire qualche testimonianza di un personaggio davvero particolare del mondo della palla ovale e che sta segnando un po' la storia di questo sport. Senti un po' questa qua. Questa è una partita tra il Munster e il Benetton Treviso di qualche tempo fa. L'arbitro fischia e chiama. Chiama i giocatori, no? Chiama i capitani, per favore, venite qui. Telecronista che ci introduce. Adesso sentiremo la voce dell'arbitro. The law is quite clear. Maul is formed, held up, unplayable, turnover ball, no issues whatsoever. I don't think we've met before. But I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalizing you. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on with the game. That told him. Leggendario Nigel Owens in questo passaggio, no, Biagio? Quando si rivolge al giocatore trevigiano Tobias Boats, che stava prendendo un po' a protestare un po' troppo, e gli dice: senti, qua ognuno faccia il suo lavoro, il mio lavoro è quello dell'arbitro, il tuo è quello del giocatore, smettila di protestare e ricordati, questo non è calcio, questo non è calcio. Ma pensa che questa è una frase che ho visto addirittura su una maglietta. Cioè, per dirti che è quasi impensabile che una frase di un arbitro possa finire su una maglietta, invece non era proprio così, no? Bellissima, è proprio un marchio di fabbrica, sì, come sì, a dire, guarda, qua la palla ovale, i comportamenti sono ben diversi. Basterebbe questo per fare di Nigel Owens già un personaggio, lo avete capito, l'arbitro gallese che di fatto è il Pierluigi Collina, il concetto lo bello del mondo arbitrale rugbistico mondiale. Voglio farvi sentire anche quest'altro audio, partita molto importante, Inghilterra-Francia, due giocatori, uno francese e un inglese, cominciano a spintonarsi. Nigel Owens si mette lì, vede la scena, poi interviene a suo modo. Sentiamo. Eccoli qua, si stanno spintonando. Fischio di Owens che li richiama. Come non ridere, li riprende come due scolaretti e gli dice testualmente: ragazzi, guardate che il vostro comportamento è davvero da persone immature. Biagio, ma questo è un fuoriclasse assoluto. Sì, sì, sì, un fuoriclasse anche sul campo, per anche la sua modo di arbitrare, per il suo senso dell'umorismo, veramente, e poi per la capacità di fare queste cose col sorriso e farsi rispettare, poi a parte il fatto che è aiutato dallo sport, Certo, perché il rugby, la base è buona, e il rugby ti dà molto da questo punto di vista. L'arbitro è visto come veramente un protagonista in campo, non come un qualcosa d'aggiunta, no, assolutamente, ed è rispettato dai giocatori, mai visto. Rarissime volte si vede qualcuno che contesta. Beh, ma poi insomma, quando ti trovi un Nigel Owens vicino, ti viene voglia di fare qualche fallo per andarci a parlare, perché secondo me qualcosa impari sempre. Guarda, c'ha il cartellino giallo abbastanza. Sì, fumante, ogni sempre tanto bello caldo. Lo usa. Devo dire che Owens basterebbe questo per farne un grandissimo arbitro, ma per farne un grandissimo uomo, devo dire che c'è stata una sua scelta, una sua decisione. È il 2007 e Owens è di fatto già nell'empirio dei grandi arbitri, certo, di questo sport macho per eccellenza. Sì. Il grande colpo da fuori classe di Nigel Owens è quello di fare coming out, no? Rendere pubblica la propria omosessualità. Oddio, roba da mani nei capelli nel mondo del rugby. Sì, nel mondo dello sport in generale, che vive di questo machismo, no? Che vediamo qui sui calendari, su questo immaginario che c'è. La sua grandezza è quella di averlo fatto un paio di mesi prima di andare ad arbitrare il mondiale, no? Sapendo perfettamente che in quel momento avrebbe potuto rimetterci. però ecco lì è stata questa cosa, il suo coraggio, che è stata veramente una, la liberazione di una vita, perché lui ha vissuto nella bugia, perché era quello che veramente lo tormentava e l'ha tormentato per anni. Nel 96 ha tentato di suicidarsi, cioè veramente una cosa straziante. Lui abita in un piccolo paese del Galles, il piccolo paese del Galles è solidale, è vicino, ma quando si tratta di certe tematiche è difficile riuscire ad avere un sostegno all'interno del paese. Lui tenta il suicidio e da quel momento capisce che l'unica scelta che deve fare corretta è quella di dirlo. Ci mette un po' di anni e quando ci riesce lui veramente diventa un altro uomo, perché si libera di questa bugia che aveva. Beh, devo dire che la partita di Nigel Owens continua ogni giorno da questo punto di vista, no? Ma anche contro chi invece non vuole accettare questa sua libertà, che è poi la libertà condivisa da tutti noi. Ancora nel marzo del 2015, a margine di un Inghilterra-Francia valida per il Sei Nazioni, qualcuno dagli spalti si prende la libertà di rivolgere offese omofobe proprio, certo, certo, ad Owens, no? Ma lui non le ha sentite, cioè la cosa bella è questa, cioè chiaramente se tu arbitri una partita non senti nulla, no? Chi vede, chi sente questa persona, denuncia questa persona, lo porta in commissariato con la polizia, dopodiché chiamano Nigel Owens per fare sporgere denuncia, perché nessuno poteva sporgere denuncia se non l'arbitro stesso, il quale va. E quando viene il commissariato non denuncia il ragazzo, ma chiede al commissario di poter parlare con lui, spiegarsi, capire perché diceva queste cose così terribili, no? E il commissario concede questo colloquio, lui parla con questo ragazzo, si confrontano, esce, non denuncia questo ragazzo, il quale dopo un paio di giorni pubblicamente tramite i social chiede scusa a Nigel Owens. Quindi, per dire, un ragazzo recuperato, ecco, non vessato, cioè non messo in condizione di costrizione, di certo, quello di che pena. Poteva essere un'occasione per accentuare un conflitto è diventata un'occasione, esatto, grazie a Owens, alla sua maturità, di un dialogo formativo. Certo, certo. Grazie a Biagio Vinella per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, Dario. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.